24, la storia. L'esilio richiede disciplina e coerenza, virtù nelle quali sono stata educata da due genitori con i fiocchi. E per disciplina e coerenza, in questi anni sono rimasta zitta, come un lupo sdegnoso, un vecchio lupo che si consuma nel desiderio di azzannare le pecore, sbranare i conigli, eppure riesce a controllarsi. Oriana è sempre stata un modello per me, una figura mitica. E un giorno ho capito che dovevo incontrarla, dovevo conoscerla. Così è iniziata la mia ricerca lunga, interminabile, prima con le telefonate alla Rizzoli, i suoi editori, e poi con i trucchi, i sotterfugi, una sorta di linguaggio cifrato per riuscire a trovarla e finalmente farmi dire che potevo chiamarla. E un bel giorno mi sono presentata alla sua porta, nell'Upper East Side, emozionata e titubante. È stato bellissimo. A un certo punto mi ha detto che le ricordavo lei da giovane. Potete immaginare come mi sono sentita. E così è nato questo strano, intenso rapporto, per me di stima e rispetto, e per lei direi di protezione. Un giorno l'ho messa alla porta, l'ho proprio buttata fuori dall'ufficio. Era arrivata col suo pezzo alle telescriventi e naturalmente il suo doveva partire prima degli altri. A un certo punto ho perso le staffe e ho gridato: Oriana, fuori di qui! Devo averla colpita, perché qualche giorno dopo mi ha detto: sai che non mi aveva mai sbattuto fuori nessuno. Ma vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Il 15 settembre del 2006, a 77 anni, moriva a Firenze Oriana Fallaci, una delle più grandi giornaliste italiane. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di una voce contro, che ha rivoluzionato il modo di fare giornalismo in Italia e che tutto il mondo ci ha invidiato. In un'intervista la Fallaci aveva detto, parlando di sé, su ogni esperienza personale lascio brandelli d'anima. E nelle sue pagine quell'anima irriducibile si traduceva in uno stile ricco e coltissimo. Un temperamento forte, fiero, indomito, e sprezzante del pericolo, soprattutto innamorato sempre della verità. Le sue interviste con la storia, gli straordinari reportage di guerra dal Vietnam, dal Sud America, dal Medio Oriente e poi i grandi libri. Lettere a un bambino mai nato, Se il sole muore, Niente così sia, Un uomo, Inshallah, fino alla Fallaci polemista del dopo 11 settembre con la rabbia e l'orgoglio e poi la forza e la ragione. Il nostro è un ritratto di Oriana attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuta da vicino sul campo di un giornalismo libero e appassionato, modernissimo e inimitabile. Mi misi a fare la sola cosa che potevo fare, scrivere. Appunti convulsi, spesso disordinati, che prendevo per me stessa, cioè rivolgendomi a me stessa. Idee, ragionamenti, ricordi, invettive che dall'America volavano in Italia, dall'Italia saltavano nei paesi musulmani, dai paesi musulmani rimbalzavano in America, concetti che per anni avevo imprigionato dentro il cuore e dentro il cervello, dicendomi tanto la gente è sorda, non ascolta, non vuole ascoltare. Sgorgavano come in una cascata d'acqua ora. Ruzzolavano sulla carta come un irrefrenabile pianto, perché vedi, con le lacrime io non piango. Perennemente alla scrivania, contornata dai suoi libri e da centinaia di documenti, la sigaretta accesa, dal 1991 Oriana inizia la scrittura del suo ultimo romanzo, ancora inedito, Omaggio alla storia d'Italia. Ne parla proprio lei così nel 1993, intervistata al TG1. Ho cominciato a pensare al mio prossimo libro, a quello che ancora non ho incominciato perché ancora mi sento troppo male per incominciarlo, ma lo incomincerò e lo scriverò

prima giornalista donna inviata di guerra, scrittrice ostinata e impertinente. Nata il 29 giugno del 29 a Firenze, nel 44 la Fallaci vede il padre antifascista fuggire alla fucilazione. Sulla testa le cadono le prime bombe alleate e poi le mine tedesche che sfregiano la città e lasciano dentro qualcosa. Ho avuto la fortuna di essere stata educata da due genitori molto coraggiosi. Coraggiosi fisicamente e moralmente. Mio padre, si sa, era un eroe della resistenza e mia madre non gli è stata da meno. Ma la guerra mi ha sempre interessato, è vero, perché io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. Fin da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla, per capirla meglio. Era proprio Oriana intervistata nel 1990. A 14 anni è staffetta partigiana per giustizia e libertà. I genitori, orgogliosi, la spingono molto. È la primogenita di tre sorelle. Si iscrive al liceo classico 2 anni in anticipo. Mentre studia, pubblica il suo primo articolo. Ce ne parla Daniele Protti, ex direttore dell'Europeo. Si è presentata al Mattino dell'Italia Centrale, che era un quotidiano di ispirazione democristiana, e in questo quotidiano ha scritto di tutto, cronaca nera, giudiziaria, costume, fino a che non l'hanno cacciata, come lei stessa ha scritto in una breve autobiografia che ha scritto per i lettori dell'Europeo a fine anni 70. Da lì è passata Epoca, che allora era diretta da suo zio, e però dice che suo zio, per non favorirla, le dava degli incarichi infami. Nel frattempo aveva mandato un articolo a Enrico Benedetti, direttore e fondatore dell'Europeo, che era uscito e fu il primo articolo nel 1951 a uscire sull'Europeo. Si occupava di modernità, mondanità, ma ogni tanto tornava sulla cronaca nera, morire di stupro, per esempio. Alla fine degli anni 50, Oriana si imbatte per la prima volta nell'America e nascono così i 7 peccati di Hollywood, cronaca segreta delle star. Dopo 5 anni, un reportage dall'Oriente sulla condizione femminile diventa il primo successo della Fallaci scrittrice. Si intitola Il sesso inutile, un viaggio molto lontano dalle signore italiane del miracolo economico. Così ne parla lei stessa, intervistata nel 1961. Il sesso inutile è, dopo aver letto il libro, quello a cui appartiene Oriana Fallaci, che del libro con questo titolo è autrice. Un titolo veramente bello, ma del quale vorrei qualche spiegazione. Prima di tutto perché a me questo sesso a cui tu appartieni non sembra affatto inutile. Lo spero. E poi perché non è che risulti molto chiaro dal contesto il significato del titolo. Quindi, se vuole essere una autocritica tua, non lo so, spiegacelo. Sesso inutile è quello delle donne. Perché? Cosa cerca di spiegare questo libro? Cerca di spiegare che ovunque le donne vivono in un modo inutile. Cioè sbagliato. Sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato. Ma vorrei sentire un po' da te le impressioni di una giornalista che dovunque va, dovunque si presenta, sente dire: ah, lei, Oriana Fallaci, oh, com'è cattiva. Guarda, Zatterin, parlando seriamente tra di noi, tanto nessuno ci ascolta. Nessuno ci ascolta, è chiaro. A me sembra di essere talmente buona. Questo libro, cominciare dal suo titolo, Sesso inutile, fu molto importante. Non fu politico, non era un libro politico, era un libro di storie di donne. Beh, però quasi contemporaneamente invece nasceva il femminismo impegnato, arrivavano i grandi libri dall'America, la mistica della femminilità, dall'Inghilterra l'eunuco femmina. A quell'epoca le donne lavoravano nei giornali femminili, ma nei quotidiani non ce n'era neanche una. E nei settimanali di informazione sì, c'era già una grande star che era Camilla Cederna,

era talmente soffocante che dopo neanche 5 minuti che io stavo chiusa lì dentro, mi sembrava che fossero passate delle ore. L'eroismo di Alekos è stato quello che egli ha dimostrato in tempo di pace, vale a dire quando è entrato nella politica dei politici. Si è manifestato questo eroismo in Parlamento e soprattutto da ultimo, quando ha fatto ciò che io chiamo nel libro la sua piccola Watergate personale, cioè quando ha cercato di dimostrare che gli uomini al potere in Grecia nel 1974, 1975, 76 erano gli eredi della giunta molto spesso, e alcuni uomini che avevano collaborato con la giunta, cioè con la dittatura fascista di Papadopoulos e poi di Ioannidis. Alekos aveva trovato questi documenti da solo, aveva cercato di diffonderli da solo, senza riuscirci, perché era solo, e quando ha capito che non avrebbe potuto diffonderli, ha scelto di fare l'unica cosa da fare, vale a dire presentarli in Parlamento. Avrebbe dovuto consegnare questi documenti il 3 maggio 1976, il 3 maggio era un lunedì. Alekos è stato ucciso la notte del 1° maggio. Ho scritto questo libro perché volevo che quest'uomo fosse meno morto, un po' meno morto. E tutte le volte che questo libro, un uomo, esce in un paese, Alekos rinasce e torna ad essere vivo. Mix 24, la storia. Stanotte ho saputo che c'eri. Una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio ed un tratto, in quel buio, si è acceso un lampo di certezza. Sì, c'eri. Esistevi. È stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata. Mi si è fermato il cuore. Bentornati a Mix 24. È il 1975, negli anni importanti delle prime conquiste femminili, Oriana Fallaci pubblica Lettera a un bambino mai nato. Così commenta Natalia Aspesi. Quando scrisse questo libro si era in piena battaglia in Italia per ottenere la legalizzazione dell'aborto. Era una battaglia grandiosa, politica, sociale, le donne si battevano fortemente per interrompere la catena delle morti, delle infezioni, della tristezza dell'aborto clandestino. E lei uscì con questo libro che non so sino a che punto fosse un romanzo o un'esperienza personale, in cui, appunto, basta il titolo, Lettera a un bambino mai nato, era ovvio che era contro l'aborto. Sono passati quasi 10 anni dall'intervista di Oriana allo Scià di Persia, che emancipò nell'animo le donne iraniane. Nessun capo di una teocrazia ha il potere, il mistero, il seguito di Khomeini, e la Fallaci mette a segno un'altra intervista con la storia. Incontra l'ayatollah per il Corriere della Sera e lo incalza. Chiude la chiacchierata liberandosi del chador che le avevano imposto. Ce ne parlano i giornalisti Igor Mann e Jean-Louis Arnaud. Attribuiva una risposta alla sua domanda a Khomeini, fai conto, e quando gli si obiettava, ma guarda che Khomeini non ha detto questo, non risulta dalla registrazione, lei diceva siete degli imbecilli, io ho letto dentro la vera giusta risposta. Senza cambiare le carte in tavola, lei riusciva a far dire ai suoi intervistati frasi che non erano necessariamente tenuti a dire. E questa è la vera bravura di un giornalista, di un intervistatore che vuole fare colpo. il contingente italiano arriva per accompagnare l'uscita dei palestinesi di Arafat da Beirut. A parlarcene è il comandante Franco Angioni. Oriana Fallaci chiese e ottenne in maniera determinata dal ministro della difesa di essere accreditato presso il contingente italiano. Venne tre volte, una prima volta proprio in una situazione di indagine, una massima curiosità. Si fece viva in febbraio dell'84, quando la situazione in Libano era oramai completamente deteriorata e tutti sparavano contro tutti. Non era più possibile affluire in Libano secondo i mezzi ordinari, ma lei ottenne, pretese dal ministro della difesa che fosse trovato il modo di venire nel contingente italiano. Il ministro Spadolini organizzò il trasferimento con un aereo militare a Cipro, dove affluì un elicottero della fregata Lupo, mentre la fregata faceva rotta verso Beirut. Fu una prova di coraggio che non molti sarebbero stati capaci di affrontare. Nel 1992, a 63 anni, Oriana Fallaci torna per l'ultima volta al fronte. È la prima guerra del Golfo, fra tutte quelle che ha narrato, la più insensata. Saddam Hussein non è uno Hitler, era un Mussolini, era un cialtrone che mandava i propri soldati alla guerra senza scarpe, senza mangiare, probabilmente anche con poche munizioni. Era un bugiardo, era un chiacchierone, vi farò nuotare nel vostro sangue. Invece no, ha fatto nuotare i propri uomini nel loro sangue. Dal 1991 al 2001, 10 anni di silenzio dalla nostra parte dell'Atlantico, anni che hanno segnato e diviso l'Italia. Non capisco questo pudore, non capisco questa avversione per la parola cancro, non è neanche una malattia infettiva, non è neanche una malattia contagiosa. Guardi, bisogna fare come si fa qui in America, bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente, disinvoltamente. Io ho il cancro, dirlo come si dice o si direbbe ho la polmonite, ho l'epatite, ho una gamba rotta. Io faccio così e a fare così mi sembra di esorcizzarlo. Guardi, il rapporto è un rapporto di guerra, è il rapporto tra due nemici che mirano a distruggersi, come alla guerra. Lui vuole ammazzare me e io voglio ammazzare lui. Dico lui perché io sono incapace di parlarne come di una cosa o come di un'entità astratta. Per me lui è una creatura viva, un animale di un altro pianeta, un alieno che ha invaso il mio corpo per distruggerlo. La malattia è inguaribile. Il 15 settembre 2006 Oriana lascia un grande vuoto nella scena italiana internazionale e gli amici amano ricordarla così. Una delle sue virtù esemplari è stata la mancanza di paura. È molto difficile guardare il potere negli occhi senza mai esserne intimiditi. Questa capacità di muovere le viscere, di muovere il sangue che scorre dentro le vene, di stupirci, perché comunque Oriana non ti lasciava mai sedere, non ti lasciava mai riposare, non ti lasciava mai riflettere o guardare da distante un avvenimento. Cioè, con Oriana lo si guardava da dentro. Cristina De Stefano, scrittrice, giornalista, autrice del libro Oriana, una donna. Perché questo libro sulla Fallaci? Perché si è presentata un'occasione unica, storica, cioè essere contattata dal nipote ed erede di Oriana Fallaci, Edoardo Perazzi, che voleva una vera biografia di sua zia e mi ha messo a disposizione tutte le carte private. Quindi fonti, appunti personali, fonti inedite. Lei cosa ha scoperto di nuovo? Ho scoperto di nuovo di sicuro tutta la parte effettivamente privata di Oriana, di che lei aveva sempre difeso, e poi ho messo ordine, non c'è la scoperta folgorante, ma ho messo ordine in tutto quello che si sapeva di lei, mostrando anche rispetto ai suoi libri come ogni suo libro nasce, è come una gemmazione da uno snodo della sua vita privata. Cioè la genesi. Per esempio, mi fa un esempio? Per esempio Penelope alla guerra, che è un romanzo di lei molto poco conosciuto perché è il primo, nasce veramente da un'esperienza amorosa che lei vive, e io racconto bene questa storia che non si sapeva. Con chi era l'amore? Che era il famoso Alfredo Pieroni, di cui si è saputo solo ora, ecco, perché è un amore, il primo amore che lei nascose a tutti. Poi direi che l'altra grande, per me almeno come lettrice scoperta, è stato entrare nel laboratorio di scrittura di Oriana Fallaci, cioè perché io ho avuto accesso a tutte le sue carte di lavoro e ho scoperto che questa scrittrice che sembra così facile, no? Così in conversazione con i suoi lettori, in realtà era una persona che lavorava tantissimo, si preparava, buttava, rifaceva, riscriveva e studiava tantissimo per ogni suo libro. Quindi vedere come Oriana lavorava è stato interessante e penso sia molto interessante anche per i lettori. Lei ha scritto: Oriana in fondo era una donna forte ma anche fragile, soprattutto piena di contraddizioni. Qual è la contraddizione più profonda di Oriana? Direi questa, cioè Oriana era una persona nella vita molto aggressiva, molto determinata, molto cosciente del suo valore, molto decisa a prendersi tutto quello a cui pensava di aver diritto come professionista fin da quando ha 18-19 anni, mentre nella vita personale, cioè nelle amicizie, nei legami sentimentali, era molto meno forte, era molto fragile, vulnerabile, a livello quasi patologico, nel senso che una donna così intelligente in realtà aveva una grande paura di essere ferita e poi anche aveva questa... Cioè paura di amare? Paura di essere ferita. In realtà poi lei si buttava molto, era una persona molto impetuosa, molto allegra e molto anche... certe volte non pensava alle conseguenze, ecco, però aveva una grande paura di essere ferita ed è una cosa che io non mi spiego, perché in realtà quando appunto essere feriti fa parte della vita, e lei lo scrive anche nelle lettere, dice per esempio: il mio più grave difetto è che non so perdonare chi mi ferisce, cioè quindi lei era cosciente di questa sua debolezza, diciamo. Direi che era la sua, era la cosa che la descrive di più nella vita privata. Non accettava di essere ferita, non accettava di essere delusa delle persone che amava, anche di amici, era molto severa con se stessa ma anche con gli altri. Le voglio far ascoltare un passo del libro La rabbia e l'orgoglio, che poi commentiamo. Certo. Sbaglia chi si consola con le immagini delle donne a Kabul che non portano più il burqa e a volto scoperto escono di casa, vanno di nuovo dal dottore, vanno di nuovo a scuola, vanno di nuovo dal parrucchiere. Sbaglia chi si accontenta di vedere i loro mariti che dopo la disfatta dei talebani si levano la barba come dopo la caduta di Mussolini gli italiani si levavano il distintivo fascista. Sbaglia perché la barba ricresce e il burka si rimette. Ecco, sullo scontro di civiltà a cui stiamo assistendo tra Oriente e Occidente si è detto: aveva ragione la Fallaci, cioè lei aveva previsto perfettamente quello che si sta realizzando. È vero, è giusto dire così? Io penso che sia giusto dire che Oriana è spesso in anticipo sui tempi, non solo con La rabbia e l'orgoglio, che lei ha scritto più di 10 anni fa e che effettivamente quest'estate del califfato ha un po' riportato, ahimè, in di attualità. Quindi Oriana non è per niente ideologica nelle sue posizioni, anche su altre cose, molto viscerale, molto istintiva. Sull'Islam ha avuto delle posizioni molto chiare, ma anche prima dell'11 settembre, aveva proprio un'inimicizia con questa... perché detestava l'idea di una teocrazia, no? E detestava la condizione femminile sotto la religione islamica, quindi ha lanciato degli allarmi forti e direi che almeno su due cose, cioè l'aggressività territoriale, chiamano così, no? Che è la novità di quest'estate, cioè questo cosiddetto Stato islamico, anche se io trovo che chiamarlo così significa già dargli una forza che non ha, diciamo, al-Baghdadi e la sua formazione e il rischio della cosiddetta quinta colonna islamica in Europa, sono due allarmi che Oriana aveva posto molto forti nel passato, ma non bisogna pensare solo alla rabbia e orgoglio, cioè 2001. Oriana Fallaci negli anni 80, cioè 20 anni fa, quando scrive Inshallah, che forse è il suo libro più difficile, però è veramente visionario, lei scrive: la terza guerra mondiale sarà fra cristianità e Islam, non fra i due blocchi, cioè ha già una visione del Libano come un laboratorio politico dove si sta risvegliando, diciamo, l'idea islamica della riconquista dei territori che un tempo erano del califfato. Quindi direi che è abbastanza, ahimè, giusto dire che quest'estate ha riportato di attualità tante cose che lei ha scritto, semmai a me colpisce sempre che poi i giornali la citino ancora molto poco. Grazie Cristina De Stefano. Grazie a voi.